Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Federica Alderighi, una delle registe, per presentare il documentario collettivo Tutti a casa, memorie digitali da un mondo sospeso, sulla 7D, lunedì 8 marzo 2021. Federica, ben trovata. Ciao Federico, grazie. Ci eravamo sentiti a luglio per la campagna di crowdfunding, la Casa Internazionale delle Donne, di questo progetto. Ce ne parli un po'? Beh, allora, intanto il crowdfunding è andato bene, quindi hai portato bene, quindi grazie. Siamo riuscite ad arrivare alla somma che ci eravamo prefissate e l'abbiamo anche superata di un pochino. Non siamo fuggite col malloppo nei vari paesi in vacanza, l'abbiamo utilizzato per portare avanti il progetto che ovviamente abbiamo finito e adesso siamo pronti per vederlo sullo schermo anche noi, insomma. Abbiamo avuto una prima collettiva di noi dell'associazione poche settimane fa, se ci penso, ed è stato un rush, perché da quando le tre ragazze che si occupavano, tre professioniste del gruppo, si sono preoccupate di finire di montarlo e hanno avuto questi tre mesi intensissimi e ci hanno mostrato, quando abbiamo avuto la comunicazione che la 7D era interessata a mandarlo in onda proprio l'8 marzo, che è una giornata molto speciale per noi, perché insomma non è soltanto la giornata internazionale della festa della donna, ma anche un anno esatto dall'inizio del lockdown e quindi questo inizio di avventura personale e collettiva. Insomma, è passato veramente poco e quindi è una bella lavatrice di emozioni. Ci racconti un po' che mosaico è? Molto variegato, nel senso che noi abbiamo più di 500 protagoniste, abbiamo ricevuto più di 8.000 video diari di queste nostre protagoniste, quindi il materiale è tantissimo, quindi la scelta di regia è stata una scelta molto complessa, e appunto come tu è un mosaico, quindi ci sono sicuramente dei personaggi, delle donne che si ripetono ma non sono moltissime. Abbiamo cercato di dare uno sguardo d'insieme a quello che è successo nell'universo umano e femminile nello specifico. Quello che sicuramente per esempio a me ha colpito maggiormente è l'onda emotiva. Sicuramente l'hai sentito pure tu durante il lockdown, quei tre lunghi mesi intensi. C'erano dei giorni in cui stavamo tutti quanti super felici, euforici e poi un tracollo pazzesco, Dio cosa ne sarà di noi. Queste ondate emotive si sono ripetute quasi copia carbone in praticamente tutti e quest'onda la si percepisce molto chiaramente nel film. Ovviamente è una cosa comune che ha riguardato tutte, però le donne sono tante, quindi abbiamo dalle bambine da in fasce 7-8 anni in su, le ragazze che stanno al liceo e studiano in DAD, professoresse, ma anche donne adulte, anziane, single, in famiglia, operatrici ecologiche, ovviamente medici, infermieri, cassiere del supermercato, insomma l'universo è estremamente variegato. Tutte queste donne hanno vissuto queste onde emotive a modo loro ed è molto particolare come sensazione perché dà una visione di insieme variegata, però allo stesso tempo ci si ritrovi sia come donna che come individuo, io penso, insomma. C'è qualche sguardo che ti ha sorpreso in particolare? Sicuramente ti dico l'idea di ritrovarmi in ogni singola donna, per quanto diverse esse siano, fa molto effetto, perché dici cavolo, io e questa persona palesemente non abbiamo molto in comune, eppure mi ci ritrovo, no? E questo sicuramente fa molto effetto. Sicuramente quando c'è la dottoressa che racconta una cosa specifica che a me ha fatto molto effetto, no? Che racconta di questa cosa, non voglio spoilerare troppo, però di quando stava appunto curando due malati Covid che erano in stanza insieme e in quel momento si stava occupando più di uno che di un altro, l'altro ha fatto presente, ovviamente con grande sofferenza, cioè tu stai puntando sul mio vicino di letto perché sai che lui può sopravvivere, invece non ti stai dedicando a me perché mi dai per spacciato, no? E la dottoressa quasi in piedi al pianto si apre perché, ripeto, sono dei video diari, quindi le nostre protagoniste si sono veramente aperte come nella scrittura di un diario. dice: questa cosa fa molto male perché fa capire il livello di disperazione. Io mi sto dedicando a voi, sto rischiando la mia vita, la mia famiglia, tutto per potervi far sopravvivere tutti. Non mi alzerei la mattina con questo peso se non credessi veramente in questo. Però questa dichiarazione, questa richiesta di aiuto, questa rabbia data da questo malato l'ha fatta star male, e ovviamente poi io non sono stata in terapia intensiva, quindi sentire riportate queste parole mi ha fatto, non sorpreso, quindi forse sono un po' off topic della domanda, però sicuramente mi ha fatto molto effetto quando l'ho sentita. C'è qualche spazio web dedicato a questo lavoro? Sicuramente abbiamo i nostri social, che sono Instagram e Facebook, sicuramente c'è il nostro sito web in cui spieghiamo un po' tutto il nostro iter, quello che succede, che è successo, la messa in onda e tutto quanto. Sui social siamo molto attive, rispondiamo sempre in tempo, abbiamo un response time super veloce, quindi chiunque voglia contattarci, chiedere informazioni o dirci ciao, ci trova sicuramente, quindi Instagram e Facebook di Tutti a Casa. Tutti a Casa, memorie digitali da un mondo sospeso. Un saluto e un ringraziamento ad una delle registe del documentario collettivo, Federica Alderighi. Un abbraccio in bocca al lupo e alla prossima. Creativa, non si sa come si deve più rispondere. Grazie mille comunque. Con Marco Mario De Notaris, regista del film La tristezza ha il sonno leggero, online su RaiPlay. Marco, ben trovato. Ben trovato a te. Come lo presenteresti a chi ci ascolta? Come una commedia molto semplice, una commedia in interni, quasi un Kammerspiel, direbbero i tedeschi, però in salsa partenopea chiaramente. Siamo nella notte della caduta del muro di Berlino, questo protagonista Harry Gargiulo, un quarantenne molto spiantato, viene mollato dalla moglie perché non riesce a sfondare come fumettista. Insomma, è un uomo molto timido, introverso e imbranato, diremmo oggi, e va a vivere in una comune di punk. In questa comune di punk scopre il gusto della trasgressione, e proprio la sera che chiama una squillo a casa, si precipitano per una serie di equivoci in casa sua tutti i membri della sua famiglia allargata, che è una famiglia molto invece borghese, convenzionale e conformista. E in quella notte in cui cade il muro, anche Harry fa crollare questo muro un po' di incomprensione, di inadeguatezze, e prende la sua strada alla tenera età di 40 anni. Quindi un film un po' sospeso nel ricordo di un momento che forse tutti ricorderemo, ma non è il momento centrale, diciamo, della vicenda. È come se fosse un'osservazione un po' a distanza di un evento sconvolgente che può provocare anche reazioni a loro volta sconvolgenti. È un film che ha un'ascendenza letteraria. Sì, è tratto dall'omonimo romanzo di Lorenzo Marone, però lo abbiamo riadattato completamente, insomma, c'è un espediente di commedia classica molto plautina, diciamo così, quindi proprio commedia degli equivoci, e dentro a questa cornice di 30 anni fa, mentre invece il romanzo è assolutamente contemporaneo, pieno di tablet e messaggini. Però volevo spegnere i telefonini per una volta, insomma, e costruire un equivoco molto più credibile in un momento storico in cui anche restare in un ascensore poteva significare veramente un problema grande. Com'era nato il progetto, l'idea del film? Da una mia ferrea volontà di fare un film, innanzitutto. Quindi avevo debuttato come regista attore il mio piccolo cortometraggio, che era riuscito ad avere anche un interesse culturale nazionale. Questo cortometraggio, che si chiamava Il Continente Fantasma, ha girato un po' per qualche festivalino, insomma l'ho usato un po' come biglietto da visita, e fortunato incontro con i produttori, con Carlo Macchitella, Luciano Stella e Carolina Terzi, li ha convinti a costruire un film insieme, e dopo varie proposte è nata questa suggestione di adattare un romanzo corale che potesse darmi la possibilità di esprimermi sia come attore che come regista, ma contemporaneamente di limitare, diciamo, l'ego, la figura del mattatore all'italiana, e di defilarmi un po' per dare spazio a un'umanità complessa, molto frastagliata, di questa famiglia, di questi grandi e sorprendenti attori che mi hanno accompagnato in questa avventura. Insomma, quindi è stato un incontro, come tutti gli incontri belli, anche un po' fortuito, insomma. Cosa avevi apprezzato del romanzo? Ho apprezzato molto la capacità di Harry, e in questo il film è molto fedele al romanzo, nella costruzione dei personaggi, diciamo. La capacità di Harry di affrontare il conflitto con l'assoluto perdono. Cioè, in un momento di grande odio, tutto questo discorso sul linguaggio anche dell'odio, l'aggressività, sempre di usare la lama, l'urlo per risolvere conflitti anche personali e familiari, Harry sceglie questa strada che è completamente spiazzante, cioè la totale comprensione dell'altro, è talmente nei panni dell'altro che si dimentica poi dei suoi panni, e quando poi si riappropria anche di questi pezzi, della sua identità, della sua diversità anche rispetto al contesto familiare, fa la sua scelta e vive a modo suo. Insomma, e mi piaceva in questa cornice degli anni Ottanta ricordare il periodo delle case occupate, dei punk, dei fumetti di Frigidaire. Non so quanto emerga questo, però c'è tutta una prima parte di film che è un po' un omaggio a questo, e ho affidato al giovane Edoardo Scarpetta, prossimo carosone, il ruolo di un punk molto divertente. Quel decennio è stato un punto di svolta oppure un momento di nascita di qualcosa? Come la vedi? Punto di svolta, perché quel decennio segna la fine della possibilità di un'alternativa sociale, in un certo senso, no? Cioè, mentre si parlava della libertà dei popoli dell'est, o mentre si celebrava la libertà, sostanzialmente veniva abbattuto insieme a quel muro la possibilità di un'alternativa, di una costruzione differente del mondo. E infatti uno dei personaggi dice: speriamo che sto muro non vi cada addosso. E forse ci è caduto addosso, no? Senti, nella scelta degli interpreti come ti sei mosso? Non avevo dubbi su Serena Rossi, la quale è una cara anche amica e quindi ha partecipato veramente con gioia e amicizia e generosità a questo film. Cercavo questa madre di Harry molto severa, molto matrona, ma non avrei mai voluto doppiare la sceneggiatura, cioè un personaggio un po' crudele, affidarlo a un'attrice più caratteristica, più virago sarebbe stato sottolineare la sottolineatura, e invece ci è venuto in mente Stefania Sandrelli, perché è una donna molto dolce, attenta, è un'attrice sensibile, e magari metterla in condizione di essere un po' cattivella poteva essere un bel cortocircuito, e mi sembra che sia andato bene, insomma. Poi Stefania ha letto la sceneggiatura, io le ho scritto una lettera, chiaramente da fan proprio, da ragazzino al suo mito, e lei ha accettato. Poi con Marzio Onorato c'è una vecchia collaborazione, e non ci ho pensato due volte. Con Ciro ho lavorato con il Giacal molti anni, e Ciro mi piaceva molto, e la sfida di fare anche qui un personaggio un po' diverso da come lui nei Giacal. E poi con i Provini ho trovato Eugenia Costantini, che è un'attrice fantastica, e Roberto Caccioppoli, che è anche bravissimo, insomma, bello e bravo, e Tonino Taiuti, che è una colonna dell'underground napoletano con il quale ho lavorato a teatro tanti anni e per il quale nutro proprio un affetto quasi filiale. Mi sono mosso così, sulla stima, sull'affetto e sui Provini, ovviamente. Sul film esiste un sito internet, una pagina Facebook di riferimento? Vai su RaiPlay e trovi il film. La pagina Facebook di riferimento è quella della produzione, su Facebook, che è Mad Entertainment. La tristezza ha il sonno leggero, online su RaiPlay. Un saluto e un ringraziamento al regista Marco Mario De Notaris. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi, grazie. La coregista Carmen Giardina sul documentario Il caso Braibanti, online per Cinema Oltre, Palladium Film Festival, su mymovies.it dal 9 al 14 marzo 2021. Ben trovata. Grazie, ben trovati a voi. Come ce lo presenteresti? Io e Massimiliano Palmese abbiamo cercato di raccontare il processo Braibanti, un caso avvenuto nell'Italia del 1968 in piena contestazione, partendo da questo fatto. Io avevo assistito allo spettacolo teatrale di Massimiliano, Il caso Braibanti, ed ero rimasta sconvolta da questa vicenda che non conoscevo assolutamente. Un processo veramente alle streghe, avvenuto in pieno 68 nel mio paese, in Italia, è una cosa che non credevo veramente potesse succedere. Una persona che, avendo una relazione amorosa con un altro uomo, era stata per questo processata e condannata a 9 anni. anni di carcere. Questo veniva raccontato in questo spettacolo teatrale, ma con Massimiliano, siccome siamo amici e gli ho detto guarda, mi ha colpito moltissimo questo spettacolo, abbiamo piano piano deciso di dare un respiro più ampio alla storia e di realizzare un documentario che avrebbe in parte raccontato il processo, ma anche raccontato poi quell'epoca, quella Roma, quell'Italia degli anni 60 e poi dei primi anni 70 e la figura di Aldo Braibanti, che era una persona all'epoca di grande influenza. Parlando con Alessandra Vanzi, lei disse era in assoluto il primo a praticare l'avanguardia teatrale in Italia, è stato il primo, dopo di lui Carmelo Bene, dopo tanti altri. Carmelo Bene lo riconosceva come uno dei suoi maestri, quindi una persona che ha avuto una tale influenza anche nel mondo del cinema. Alberto Griffi ha lavorato spesso con lui, erano amici, hanno collaborato per anni. Insomma, questa persona è stata completamente dimenticata dalla cultura e dalla società italiana, nonostante sia uno dei casi in assoluto più gravi di discriminazione e di persecuzione giudiziaria. Aldo Braibanti divenne un mostro, fu creato una specie di caso giornalistico e giudiziario intorno a una figura di un intellettuale assolutamente mite, come lo descrive Pierpaolo Pasolini, e proprio per questo appunto incapace di difendersi, come invece Pasolini aveva fatto nei processi che aveva subito avendo le spalle più forti. Aldo Braibanti venne fatto oggetto di questo processo, veramente una specie di massacro. Questa cosa mi ha colpito talmente tanto che insomma siamo partiti subito alla ricerca di tutti i materiali che si potevano trovare intorno a questa vicenda. Come lo avete strutturato il documentario? Non esistendo nulla che raccontasse quel processo, abbiamo fatto un azzardo con Massimiliano di inglobare all'interno del lavoro cinematografico alcune parti dello spettacolo teatrale, e in questo modo abbiamo potuto avere una ricostruzione proprio del processo che veniva fatta nello spettacolo, che altrimenti non avrebbe avuto secondo me la stessa efficacia, perché il linguaggio di queste arringhe, di queste accuse del PM era qualcosa che veramente andava restituito allo spettatore, al pubblico. Intorno a questo, o anzi molto prima di questo, siamo partiti con il racconto che abbiamo invece girato noi di una lunga intervista al nipote di Aldo Braibanti, Ferruccio Braibanti, che aveva all'epoca 18 anni e seguì tutto il processo, che ci racconta quindi di prima mano quelle che erano le atmosfere, i sapori, le cose che si muovevano intorno a questo processo, che sono cose molto inquietanti e che ancora oggi sono per noi attuali e sono per noi un pericolo, nel senso che sicuramente c'era una parte di Italia oscurantista, ancora fortemente legata al fascismo, ancora fortemente bigotta, legata alla parte della Chiesa più oscurantista, che ha usato questo processo per mettere un argine alle richieste di diritti e di libertà che arrivavano da tutto il mondo con i movimenti studenteschi. E anche in Italia c'era una battaglia per il diritto al divorzio, all'aborto, Marco Pannella, e quindi per mettere un argine a tutto questo si architettò questo processo, che trovò molti sostenitori, diciamo, in una parte di Italia che era quella appunto che voleva frenare il progresso e restaurare una specie di passato oscuro. Ci sono personaggi insomma in questo processo che risuonano in maniera abbastanza inquietante: il giudice che condannò Braibanti è lo stesso giudice del processo Valpreda, il perito psichiatrico che decise l'accusa di plagio e la motivò scientificamente era Aldo Semerari, un perito psichiatrico assolutamente discutibile, era di chiara fede fascista e lavorava per diversi mafiosi. Pochi anni dopo il processo fu trovato decapitato, quindi insomma si muovevano delle cose intorno a questo processo molto inquietanti. Il processo appunto non poteva essere un processo per omosessualità, ma utilizzarono l'accusa del plagio. Il reato di plagio in effetti non era mai stato utilizzato in Italia, fu usato unicamente per Braibanti, cioè loro volevano dimostrare che la persona che viveva con Aldo lo faceva perché lui era stato plagiato, lui aveva plagiato il suo compagno per obbligarlo ad avere una relazione omosessuale. E questo era un reato per cui appunto fu condannato unicamente Aldo, ma pochi anni dopo venne cancellato perché ritenuto incostituzionale. C'è uno spazio internet dove avere informazioni? Noi abbiamo concentrato tutto su una pagina Facebook che si chiama Il caso Braibanti, il film. Chi vuole può trovare lì tutte le informazioni, noi postiamo sempre le proiezioni e io e Massimiliano Palmese lo aggiorniamo quasi quotidianamente. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto! A presto, grazie a voi, ciao! La co-regista Carmen Giardina sul documentario Il caso Braibanti, online per Cinema Oltre, Palladium Film Festival, su mymovies.it dal 9 al 14 marzo 2021. con Elisabetta Pandimiglio, regista del documentario La cena di Tony, su Rai Cinema da domenica 28 febbraio 2021. Elisabetta, ben trovata. Ciao Federico, grazie, buonasera, buonasera a chi ci ascolta. Ci presenti questo tuo lavoro? Questo è un lavoro di qualche anno fa su Tony De Marchi, che è un giornalista di vari giornali di riviste, ed è la storia dei 3 anni in cui aspetta un farmaco che lo possa sollevare dai sintomi della sclerosi multipla, che lo ha raggiunto all'improvviso a 53 anni. Quindi una malattia rara, ancora più rara, perché è una malattia di solito giovanile. Io l'ho conosciuto nel fine d'anno del 2012 e lui stava aspettando a momenti questo farmaco, era una questione di mesi. Ci siamo poi continuati a sentire e frequentare, lui aveva visto alcuni dei miei film e mi ha detto, scherzando, perché non fai un film su di me? E io l'ho preso in parola e pensavo di stare dentro casa sua a filmare 2 mesi e invece ci sono rimasta 3 anni. Quindi il film racconta anche la difficoltà di utilizzare un farmaco a base di cannabis, quindi considerato immorale in qualche modo, un farmaco costoso. Quindi io racconto come Tony si riorganizza la vita in attesa di questo farmaco. E ti dico questo, che credo che rendere questo film disponibile a tutti in questo momento nel sito di Rai Cinema è interessante, perché Tony è un grande esempio di come si debba essere pronti a reinventarsi un nuovo quotidiano quando ti arriva addosso un qualcosa di imprevedibile, come per lui è stata la malattia, la sclerosi multipla. Credo che ci sia molto vicina questa problematica in questo momento, perché collettivamente stiamo vivendo un po' la stessa situazione e quindi ci sentiamo ristretti e costretti a rinunciare a tutta una serie di cose che diamo come scontate. E Tony sicuramente, con la sua voglia di resistenza e con la sua attuare la resistenza, dimostra che si deve e si può fare. Come avete deciso insieme lungo questi 3 anni di strutturare poi il documentario? Una cosa che, come succede per i lavori di questo tipo, viene un po' da sé. Tra me e Tony è nata una grandissima amicizia comunque, anche con dei momenti di crisi. E nel momento in cui ho deciso di fare il film non ho neanche aspettato di cercare una produzione, perché succedeva subito dopo, e quindi io ho preso la telecamera, poi ho messo in mezzo amici, alcuni di cinema, altri no, che mi venivano a fare la seconda, la terza camera. Qualche volta sono andata con 3 camere da sola, cioè facevo una macchina a mano e 2 cavalletti. Quindi lui mi diceva, oggi succede questo di interesse, io prendevo, partivo, andavo a filmare e poi piano piano il film l'ho costruito, anche perché l'ho dovuto costruire in corso, perché io pensavo di fare una cosa di 2 mesi, invece è diventato un aspettando Godot. Quindi man mano che facevo le riprese gliele facevo vedere, ovviamente, perché sai, lui è molto generoso nel raccontarsi, la forza del film è questa, lui non mi ha mai detto questo no, ci sono anche dei momenti molto intimi. Chiaramente io, per come concepisco il cinema, ho cercato di non essere, diciamo così, porno in senso lato, ho cercato di essere discreta. Stavo sempre a casa sua praticamente, quindi è nata una grandissima amicizia, tuttora ci sentiamo tutti i giorni e lui è molto contento, perché appunto è giusto che esca, che sia a disposizione in questo momento, sia perché le malattie rare, sia per il motivo che ti ho detto prima, perché abbiamo tutti una grande difficoltà adesso in questo momento a riorganizzarci per questa cosa che ci è capitata all'improvviso e ci ha reso ristretti, costretti. Lui ci insegna come fare, quindi è il racconto di questo, è il racconto del suo riorganizzarsi la vita, non potendo più uscire di casa, sempre di meno, e chiaramente poi c'è tutto il discorso della condivisione, si poteva fare, adesso non possiamo fare neanche questo. Che impressioni ne hai ricavato da questa lunga esperienza? Ho rivisto il film, adesso mi fa un po' male vederlo, ecco, perché poi comunque la malattia di Tony è una malattia degenerativa, no? Quindi ci sono stati dei cambiamenti, no? E quindi ecco, è un po' difficile accettare questo. E mi fa impressione, perché adesso c'è un sacco di persone, specialmente anziani, che sono in una situazione molto simile, no? Si ha paura di tutto. Soprattutto anche lui non aveva gli strumenti per capire qual era il suo orizzonte. Era smarrito in queste cose, capito? Poi quando arriva la notizia che c'è questo farmaco miracoloso che può alleviare i dolori e tutto, la sua vita sembra cambiare improvvisamente, però poi gli stati d'animo sono altalenanti, no? Perché arriva, non arriva, tutta la burocrazia, è un farmaco molto costoso. Quindi l'impressione è la solita che ho quando faccio lavori di questo tipo, perché ne ho stati altri, e che insomma la vita è molto più forte di qualsiasi sceneggiatura. Rispetto alle cure, il rapporto della medicina con la canapa, ad esempio, com'è questo? Sì. Come sta cambiando nel tempo? In questi anni è molto cambiato, considera che io ho cominciato a girare nel 2013, poi ho girato per 3 anni, è cambiato, la cannabis vedo che si usa addirittura per malattie molto meno invalidanti, tipo, non so, l'emicrania, c'è un mio amico che lo stanno curando con l'emicrania, quindi è cambiato. Allora secondo me c'era anche una preclusione ideologica sicuramente. A parte appunto poi la cura credo che adesso costi meno, comunque Donny l'ha fatta per un periodo la cura, poi è andata avanti in altri modi, no? Perché era una cura comunque sperimentale e con delle reazioni individuali. E dunque il film io chiaramente l'ho fatto con l'aiuto di Recinema Channel, questo lo dico perché per questo sarà disponibile nel sito www.recinema.it, ma mi pare che l'hai detto prima. Vorrei che tante persone lo vedessero, a parte che i film devono essere visti, non solo fatti, perché altrimenti che c'è il grande problema della distribuzione, che non è un problema di adesso, ma che adesso si è accentuato. Ma vorrei che lo vedessero perché secondo me c'è molto di quello che stiamo vivendo, ecco, in una forma diversa, però insomma. I riferimenti ce li hai dati, La cena di Tony su Rai Cinema da domenica 28 febbraio 2021, un saluto e un ringraziamento alla regista Elisabetta Pandimiglio, un abbraccio, grazie. In bocca al lupo, a risentirti presto. Grazie di avermi invitata, al prossimo. Con la regista Elena Caronia del collettivo di filmmaker Opponiamoci per presentare il suo documentario Nawal Sufi, rotta balcanica. Ben trovata. Ciao. Partiamo dal collettivo di Opponiamoci. Per chi non lo conoscesse, ce ne parli un po'? Il collettivo nasce all'interno dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico. Hanno fatto appunto questo collettivo per raccogliere tutti gli operatori, tutti i filmmaker che avessero voglia di collaborare su temi che potessero interessare dell'ambito sociale, politico, no? L'opposizione. Ho cominciato a lavorare all'inizio, abbiamo fatto durante il primo periodo di lockdown una serie di interviste in tutto il mondo per raccontare quello che succedeva un po' in tutto il mondo durante il lockdown, e adesso stiamo invece lavorando sulle migrazioni. Questa cosa su Nawal, l'idea era nata anche durante il periodo del lockdown, perché lei stava a Lesbo in quel periodo, e ho provato qualche volta a contattarla, ma sempre ogni volta ci davamo un appuntamento, però le succedeva qualche cosa per cui è impossibile poi riuscirci a beccare. Però io insomma lei la seguo da quando lei fece il discorso al Parlamento Europeo. C'è un bellissimo intervento di 7 minuti su cui poi io avevo girato pure un piccolo video documentario in cui già denunciava praticamente tutte le situazioni di frontiera e di migrazione. Insomma, lei è stata là parecchio a Lesbo, è stata là 3-4 anni e il 1 gennaio credo che abbia deciso invece di partire, è andata a farsi questo percorso cercando di aiutare più gente possibile nel suo percorso, insomma. Volendo ricontattarla anche in questo momento che è molto difficile e volendo parlare di lei, ho pensato bene che siccome lei racconta tutto quanto sulla sua pagina Facebook, di raccogliere alcune testimonianze che lei sta facendo durante questo percorso e riunirle in un unico discorso. Restando su Opponiamoci, che formato hanno i vostri lavori adesso? Sono tutti da una decina di minuti? Più o meno sì, anche se poi dopo pubblichiamo anche dei lungometraggi, per esempio adesso è stato pubblicato, li pubblichiamo anche molto su Arcoiris TV, il documentario che ha fatto Tommaso D'Elia con altri su Mimmo Lucano. Però tendenzialmente insomma cerchiamo di tenerci sul breve, ma non è una cosa per forza. Spostandoci ecco sul tuo documentario, ci racconti qual è la rotta balcanica? Sono i rifugiati che arrivano dall'Afghanistan, dalla Siria soprattutto, dal Pakistan, cercano di entrare in Europa, cercano di entrare in Italia passando da Croazia, Serbia e vengono bloccati alle frontiere anche con l'Italia, per cui ci sta quello che fa Nawal è di denunciare praticamente il fatto che l'Europa su questo problema non prende nessun provvedimento e lascia morire le polizie di frontiera che spogliano le persone in mezzo al ghiaccio e mi toglie tutto quanto, violenza bestiale e non li fa passare. La denuncia di Nawal è soprattutto questa, è una denuncia al fatto che non si fa nulla. è una cosa che con la quale lei ha, cioè, il suo, è uno dei suoi punti fermi proprio. L'atteggiamento delle polizie di frontiera viene documentato in vario modo? Lei lo racconta, ma dal punto di vista delle immagini nel suo diario non c'è, però lo racconta, neanche subite pure lei, insomma. Come hai strutturato il tuo piccolo racconto? Ho seguito praticamente veramente il suo diario, cioè sono andata a recuperare alcune cose che lei aveva pubblicato, poi tra l'altro lei non è che gira con telecamera, lei li prende con un telefonino. E poi dopo anche nel suo diario, anche nella sua pagina, lei ogni tanto pubblica delle cose che gli mandano altre persone. Infatti ci sta un pezzo che è in arabo, me lo sto facendo tradurre, però insomma era interessante la voce di questa persona che camminava in mezzo al ghiaccio e raccontava quello che vedeva. E sono tutte pagine che lei raccoglie e chiede di farle girare, peraltro. I vostri lavori sono tutti archiviati e disponibili in rete? Su Arcoiris è pubblicato, credo, tutto. E poi comunque c'è la massima disponibilità perché richiede assolutamente libera poter usare qualunque cosa. Arcoiris è anche YouTube, se non sbaglio. Non so se su YouTube c'è tutto. Nawal Sufi, Rotta Balcanica, un saluto e un ringraziamento ad Elena Caronia del collettivo di filmmaker Opponiamoci che ha girato questo lavoro. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, a prestissimo. Con il regista Giulio Squillacciotti per presentare il suo film What Has Left Since We've Left. Giulio, ben trovato. Ciao Federico, grazie. Era un po' che non ci si sentiva, raccontaci un po' di questo nuovo progetto. Allora, questo è un progetto, è un cortometraggio, in realtà è un progetto più ampio che ha come uno dei risultati questo cortometraggio che è girato nella sala del Trattato di Maastricht, dove nel 92 fu firmato l'omonimo trattato che definiva l'Europa come unione e che definiva i primi parametri per l'euro. È un film fondamentalmente scritto ben prima della pandemia, che però in un certo senso è stato abbastanza profetico perché prevedeva solo 3 politici rimasti in Europa in un futuro fittizio prossimo. Questi 3 politici, aiutati da un interprete inglese d'Inghilterra, quindi con accento inglese, come fantasma insomma dell'Inghilterra che continua a infestare le sale dell'Europa, questi 3 politici si confrontano forse per un'ultima volta sull'eventuale chiusura del progetto europeo. Però tra loro, in realtà, invece di parlare in termini politici, parlano solo di problemi personali. E quindi ognuno dei 3 sciorina delle problematiche che in realtà sono delle allegorie dei problemi più ampi, i macro problemi dell'Europa. Quindi metaforicamente io ho deciso di usare 3 problemi simbolo, tipo l'abbandono di uno Stato, le migrazioni e il deficit di alcuni Stati, come però problemi appunto personali di ognuno di loro. Quindi loro iniziano in questo film a apparentemente fare il loro discorsetto politico vuoto e in realtà a un certo punto l'interprete li mette davanti come se fosse una seduta di autoaiuto, un'analisi collettiva, invece che tradurre inizia a fare domande dirette a loro come se fosse insomma un terapeuta, un terapista, e loro iniziano a parlare dei loro problemi personali. Quindi uno parla del proprio divorzio, uno parla dei figli a carico che ha della moglie, quindi è sotto la superficie è un razzista che prova ad amare questi figli della moglie ma loro sono pigri, insomma riprendono un po' tutte le linee dei discorsi politici che si fanno dal populismo alla gestione economica delle cose comuni, biasimando quelli del sud, biasimando noi italiani spendaccioni, così. Quindi però ognuno appunto ne parla in un'accezione personale. Come ha avuto origine l'idea? Vivevo lì, proprio a Maastricht, e una volta per un caso fortuito sono stato invitato in quella sala e ricordandomi il 92, ricordandomi una serie di cose e avendo sempre avuto molto a cuore l'idea di identità europea come analisi, cioè mi è sempre interessato fin da piccolo questa idea di identità europea che diciamo si definisce, o almeno si definiva quando ero piccolo, in contrapposizione al resto, cioè l'identità europea esiste a partire da quello che noi non siamo, cioè non siamo imperialisti americani ma non siamo sovietici, quindi capito, siamo in mezzo. E mi era sempre sembrata una cosa interessante questa della definizione di un'identità a partire dalla sua negazione, o anzi a partire dal trovare quello che non si è prima di riuscire a definirsi. Stando in quella sala lì, che era abbastanza triste in quel momento, le luci erano spente, così mi è venuta proprio una sinossi in mente, che era ok, prossimo futuro, gli ultimi tre politici rimasti in Europa si rincontrano qui, pre-pandemia sono comunque distanziati simbolicamente perché non vogliono interagire in termini di vicinanza, ma allo stesso tempo sono distanziati, quindi si devono quasi urlare per capirci. E mi è venuta in mente questa sinossi, l'ultimo giorno dell'Europa questi tre decidono basta, è finita. Che c'è un interprete che un po' li frega, quindi insomma l'Europa continua a usare l'inglese come lingua neutrale, diplomatica, l'interprete che è inglese, che ha a cuore il fatto che il suo paese abbia lasciato questo progetto comune, decide di interagire, insomma di diventare parte attiva nel processo storico, quindi non di essere un mero traduttore, quindi rompe il quarto muro, l'interprete guarda in camera e dice ma la mia lingua può essere veramente così neutrale come lo pensano? E quindi inizia a fare esplicitare le loro problematiche personali. C'è da dire che una cosa che mi interessava era fare questo parallelo strano tra il giorno della marmotta, quindi un loop continuo di una situazione che si ripete all'infinito senza arrivare a una soluzione, passando per il canto di Natale, tipo che questi tre politici rappresentino tre momenti, no? Il passato, il presente e il futuro, e quindi vedono davanti a sé quello che, come il titolo dice, avere coscienza di quello che si aveva solo nel momento in cui si è perso, e un po' una seduta psicanalitica alla manicomio. Questo perché in realtà l'attrice che interpreta i tre personaggi è una unica. E quindi era proprio questo di incorporare una triplice identità all'interno di un unico elemento, quindi come dire che è una pazza che parla da sola, sente le voci nelle sue cuffie, nel cervello, che sono le voci dell'interprete, e parla con se stessa, quindi come se fosse in un manicomio in cui ogni giorno devono fare la loro seduta fittizia di analisi, quando in realtà magari l'Europa è già finita, questi stanno seduti sulle macerie dell'Europa e continuano a chiedersi perché. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Il film è prodotto da Keros, che è un'istituzione dell'arte di Milano, insieme a una casa di produzione olandese che è Kingswood Film, con i soldi, i fondi dell'Italian Council, italiani, Limbur Film Fondo olandese e una serie di altre cose messe insieme qui e lì, sempre olandesi e italiane. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Crevi il lupo, grazie mille, al prossimo film. Con Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi per presentare la rassegna Cinema di Quartiere in streaming il 4, 5 e 12 marzo 2021. Ben trovato. Ciao, ciao, grazie come sempre dell'ospitalità e dell'interesse per le nostre attività. Tre appuntamenti con proiezioni e incontri. Sì, sì, questa è una rassegna che abbiamo pensato con il contributo della Regione Lazio. Ed era inizialmente stata pensata per essere una rassegna di quartiere, per questo appunto prende il nome di cinema di quartiere. Noi Sentieri Selvaggi ha la sua sede principale nel quartiere dell'Esquilino, a due passi da Colle Oppio, e pensavamo potesse essere un modo per riempire la nostra sala, come accade abitualmente per i nostri incontri e per le nostre visioni, di studenti dei nostri corsi e di persone del quartiere. Ovviamente questo non è stato possibile per i fatti che tutti sappiamo e che ahimè ci tengono, no? Chiusi al pubblico nell'attesa di questa chissà quanto reale o apparente riapertura di Cinemese, no? Però insomma quando uno fa degli eventi che in qualche maniera prevedono un intervento istituzionale come nel caso quello della Regione Lazio, c'era una scadenza che era quella di fine marzo, perciò ci siamo dovuti inventare una modalità per andare online, in streaming. D'altra parte insomma anche la Berlinale è in corso online in questi giorni, quindi oramai ci stiamo facendo malauguratamente, no, il callo, però è anche un modo per ritrovare le potenzialità di questo tipo di evento, di questo tipo di connessione a distanza, e quindi saremo sulla nostra pagina Facebook e su alcune piattaforme come Cili a partire sì da giovedì e poi fino al 12 marzo. Ci racconti di questa triplice scelta? Sì. Sì, l'idea era avere da un lato professionisti diversi della filiera cinematografica, quindi abbiamo un produttore documentarista come Simone Isola, uno sceneggiatore come Franco Ferrini e un regista che poi è anche un esercente perché è il direttore, no, del nuovo Cinema Aquila come Mimmo Calopresti. I tre personaggi hanno raccontato tre Rome differenti, no? Appunto, l'idea della rassegna è legarsi a una visione di Roma il più possibile sfaccettata. Insieme a Simone Isola rivedremo e racconteremo La mia classe, Case, il film di Daniele Gaglianone ambientato in una scuola dove Valerio Mastandrea interpreta il maestro di italiano per dei richiedenti asilo. No, è un film di qualche anno fa, ma che ha anticipato tutta una serie di modalità di intervento del cosiddetto cinema del reale, il mix tra attori professionisti, attori non professionisti, tra realtà che entra nelle riprese, eccetera, che poi oggi è un po' il modo in cui si girano questo tipo di progetti. Quindi insieme a Simone Isola, che poi è il produttore di Claudio Caligari, di Bodrumio Coluccini, quindi ha raccontato veramente Roma in tante maniere differenti, racconteremo La mia classe, questo giovedì appunto alle 19. E poi invece venerdì saremo con Franco Ferrini, insomma uno dei pesi massimi della sceneggiatura italiana, lo sceneggiatore di C'era una volta in America, che però ha raccontato tante Rome diverse insieme, magari la Roma comica con Carlo Verdone, lui è tra gli sceneggiatori di Acqua e Sapone, la Roma anche panziniana, la Roma soprattutto cattiva e misteriosa di Dario Argento. Insieme a lui riscopriremo Il cartaio, che è un film che magari non venne capito fino in fondo all'epoca della sua uscita, venne anche trattato molto male dai fan storici di Argento, ma aveva un utilizzo del digitale e del lavoro sulla città anche lì abbastanza avveniristico, che oggi magari ritroviamo pure in alcuni sguardi seriali d'oltreoceano. Chiudiamo il 12 marzo sempre alle 19, sempre sulle nostre pagine Facebook, con Mimmo Calopresti, che nella Buffata racconta questa sorta di Roma sognata da questo gruppo di ragazzi di Diamante, paese nella provincia calabrese, che sognano di girare questo film e di arrivare a Cinecittà, di arrivare a Roma per presentarlo proprio a Calopresti stesso, e sognano quindi questa Buffata, questo grande pranzo con Gerard Depardieu, Valeria Bruni Tedeschi, eccetera, che racconta un po' quella Roma del mondo del cinema, dei cinematografari, che tutti quanti noi abbiamo sognato, almeno io ad esempio, che non sono originario di questa città, no, quando ci siamo trasferiti a Roma con l'idea di entrare un po' in questo mondo. Chiaramente gli incontri sono gratuitamente visibili sulla nostra pagina Facebook, cercando Sentieri Selvaggi su Facebook. Per quanto riguarda i film, invece, anch'essi sono messi gratuitamente a disposizione attraverso una serie di link, di codici per accedere a Vimeo o a Chili, che però vanno richiesti, c'è un form che trovate sia sul sito di Sentieri che sull'evento Facebook, compilando il quale, insomma, chi vorrà vedere i film prima dell'incontro può accedere alla visione. La rassegna Cinema di Quartiere in streaming il 4, 5 e 12 marzo 2021. Un saluto e un ringraziamento a Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi. Un abbraccio in bocca al lupo e alla prossima! Alla prossima, un abbraccio Federico, ciao! Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per le nostre consuete novità del mese sulla loro piattaforma. Paco, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Notizione arrivano, eh? Sì, direi di partire proprio da quella, come abbiamo annunciato nella newsletter di domenica. Da un po' di tempo stavamo cercando di lavorare in questa direzione ed è ovvio che la digitalizzazione che abbiamo anche subito, se vogliamo, in questi mesi, accelerato i processi, e finalmente l'archivio AMOD di Roma, appunto, che conoscerete molto bene, ha deciso di consolidare un rapporto di collaborazione con noi, e stiamo piano piano mettendo in streaming, sempre con il nostro criterio, quindi con la donazione libera ma obbligatoria, piano piano buona parte del loro preziosissimo catalogo. Per chi non lo conoscesse l'archivio o non abbastanza, l'attività dell'archivio, oltre che essere comitato decennale, è quasi unica in Italia, nel senso che la vastità di materiali d'archivio cui loro sono a disposizione è veramente imponente, importante, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, ovviamente, perché in questa prima tornata di 14 titoli che potete vedere già su DVD ci sono delle cose veramente interessanti. Una su tutte che mi ha colpito particolarmente sono le immagini. In realtà in quel caso è quasi un piccolo reportage con Jean-Marie Volonté negli anni 70, si chiama La tenda in piazza, quando c'era all'interno di diversi collettivi anche di attori, tra cui Jean-Marie faceva parte, attività di solidarietà verso gli operai, in quel caso che erano appunto in sciopero, e ci furono proprio delle azioni di solidarietà diretta verso gli operai in sciopero. Chiaramente era un'epoca storica un po' diversa da oggi, però nel senso, credo che il valore di un archivio sia proprio questo, non solamente quello di mettere a disposizione queste opere, ma anche di chiedersi come si possono reinterpretare o ripercorrere delle pratiche di solidarietà che oggi invece vediamo con un po' più di fatica, ecco, nel senso, a parte alcuni attori che oggi conosciamo, come questo, non so, un Elio Germano che non si è mai tirato indietro, purtroppo oggi la situazione non è così fluida e così evidente come qualche decennio fa. In sostanza questo archivio, che ripeto è un archivio che negli anni, come sapete meglio di me, non solo ha fatto raccolta di materiali, ma spesso ha anche sostenuto con la parte di archivio nuove produzioni. Noi per esempio abbiamo il film su Franco Fortini in catalogo da qualche mese, che è un film nato con una parte nel sito dell'archivio stesso, quindi diciamo che è come se ci conoscessimo da anni e finalmente arriviamo a questo momento, ecco. Per cui il percorso è lungo, nel senso che adesso iniziamo con questi 14 titoli, ma in realtà stiamo già mettendo in campo anche altre azioni, anche di anteprime pretemporanee. Faremo la proiezione per esempio online di Normal l'8 di marzo, sempre su PDDB, quindi con loro faremo un'attività che viaggia su due livelli di collaborazione. La parte di archivistica, che riteniamo essere estremamente preziosa, come vi dicevo, ma anche le anteprime a volte nazionali o internazionali, come appunto nel caso di Norma, che è un'anteprima nazionale, anche di film in uscita. Non potevamo chiedere di meglio, nel senso che è una realtà che conosciamo da molti anni, che stimiamo molto e che la collaborazione è ancora tutto da scoprire, ecco, nel senso tra un percorso di lungo periodo. Dopodiché abbiamo alcune anteprime sia questo mese che il prossimo, di cui vi racconteremo, ve ne segnalo due su tutte. Uno è invece nel catalogo classico, diciamo, quindi al di là della collaborazione con Hammond. Uno è Confine Umanità, che è un documentario reportage di nuovo che affronta il tema migratorio, soprattutto raccontando quello che è ormai tristemente noto percorso della Balkan Route. Dico di nuovo perché noi ci stiamo sforzando da un bel po' di tempo a questa parte di accogliere in catalogo più lavori possibile su questi temi, perché chiaramente è un nervo scopertissimo. Lo stesso nostro Milky Way, se ci pensate, racconta comunque di questo percorso, racconta il pezzo dopo, quello nel passaggio tra l'Italia e la Francia, ma è chiaramente un tema su cui noi siamo molto attenti e sensibili. È un bellissimo lavoro questo qua, Confine Umanità, che sta già appunto ricevendo tante richieste anche dal nostro portale, e siamo molto contenti di questo ovviamente, perché come sempre il nostro portale cerca di raccogliere e accogliere al suo interno opere anche molto eterogenee, dai temi molto diversi, ma ci sono alcune tematiche che per noi rimangono centrali in questa epoca storica, e questa è una di quelle. Poi abbiamo anche Memorie di Libertà, invece, che è un lavoro di due documentaristi di Parma che hanno già alcuni loro film in catalogo e che si concentra esattamente sul lavoro di testimonianza di quello che è stata la resistenza a Parma, quindi entra nella parte di catalogo più legata, se vogliamo, ai temi della memoria storica. Noi in catalogo abbiamo tantissime opere ormai legate alla memoria storica, soprattutto quando si parla di antifascismo, e questo lavoro va a completare questo o arricchire anche questa parte del catalogo, e quindi sono ben contenti di segnalarvi anche questo. Paco, allora ci aggiorniamo per le prossime, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. A presto, grazie a voi, a presto. Con Barbara Goretti per presentare Ritratto Rosso, Elisabetta Catalano guarda Federico Fellini, studi di Cinecittà a Roma dal 25 febbraio al 21 marzo 2021. Ben trovata. Buongiorno, buongiorno Federico. Ti presenti questa mostra? Noi abbiamo inaugurato una mostra temporanea nel Teatro 1 di Cinecittà, che si intitola appunto Ritratto Rosso, Elisabetta Catalano guarda Federico Fellini, che è una mostra fotografica che chiude idealmente l'anniversario dei festeggiamenti della nascita di Federico Fellini, iniziati nel 2020. Chiude idealmente perché una mostra, essendo insomma un atto di pensiero, in realtà apre in genere a delle riflessioni, quindi nello stesso momento siamo riusciti anche a riaprire Cinecittà ai visitatori, e quindi per noi questa esposizione ha un significato ancora più forte. Come si caratterizza? Si tratta di una selezione di immagini fotografiche concesse dallo studio catalano che raccontano il rapporto di collaborazione tra Elisabetta Catalano stessa e Federico Fellini, poiché Elisabetta Catalano iniziò a fare la fotografa proprio sul set di 8 e mezzo, dove in realtà era stata scelta da Fellini come attrice. Quindi 8 e mezzo, girato a Cinecittà, segna l'inizio del lavoro della Catalano come fotografa, e la stessa ritorna negli studi con questa mostra insieme a Fellini, con cui collaborò moltissimo, soprattutto come ritrattista. E infatti questa mostra è soprattutto una panoramica del lavoro di Elisabetta Catalano sul ritratto e in particolare anche su quello di Fellini o sui personaggi che hanno animato alcuni set di Fellini, soprattutto rispetto a film come appunto 8 e mezzo, Città delle Donne, Satirico, Intervista, La Voce della Luna, che sono diciamo i blocchi principali di riferimenti filmici che affronta la mostra, e poi una serie di fotografie, di ritratti dedicati al maestro che sono estremamente significativi perché, come sottolinea giustamente il curatore della mostra Aldo Conis, Elisabetta Catalano, pur avendo questo stretto rapporto con Fellini, non diventò mai felliniana, e questo rende ancora più vivace il dialogo e la loro collaborazione, cosa che si legge proprio anche nella stessa mostra. Sono circa 60 immagini più altre dedicate in uno slideshow alla stessa vita di Elisabetta Catalano, di cui abbiamo ricostruito anche lo studio fotografico. E questa è una cosa importante perché nello studio fotografico di Elisabetta Catalano si sono tenute molte sedute di ritratto di personaggi famosi, e addirittura è stato luogo anche di sperimentazione artistica. Non dimentichiamoci che la Catalano ha fotografato anche i più importanti artisti contemporanei, oltre che i protagonisti del mondo del cinema e della moda, e quindi alcune performance storiche si sono anche tenute lì negli anni 70, e questo insomma è un racconto molto interessante ed inedito, perché lo studio che Elisabetta ha portato in blocco, comunque riallestito come è stato fatto nel Teatro 1, non era una cosa che sia mai accaduta, e infatti oltre ai ritratti fotografici un inedito molto importante si trova nei fondali pittorici che Elisabetta Catalano allestiva per creare questo fondo monocromo sui ritratti, che si vede benissimo nei ritratti di Fellini, quindi quasi trattava l'immagine come un dipinto, e questi fondali enormi che lei si faceva preparare da artisti come anche gli assistenti di Fabio Mauri e quant'altro sono esposti per la prima volta, sono stati riallestiti dopo moltissimo tempo, sono stati concessi proprio da Studio Catalano. E poi ci sono tutti i provini delle foto ingranditi, e quindi moltissimo materiale inedito che si affianca alle immagini guida che sottolineano l'andamento delle sezioni di mostra. Un'altra caratteristica di questa mostra importante è l'allestimento curato da Cappelli Design, perché chiaramente portare una mostra di qualsiasi tipo in un teatro di posa, che è la caratteristica di Cinecittà, è anche una sfida allestitiva molto importante, perché un teatro di posa che è fatto per il cinema ha grandi potenzialità, ma non è uno spazio facile da gestire per poter allestire una mostra, quindi è un allestimento molto essenziale che non si sovrappone alla presenza degli autori, e questo anche è importante, non è un allestimento invasivo, però riesce a far parlare sia il fil rouge dedicato a Elisabetta Catalano con le foto che l'immaginario felliniano, ad esempio con una serie di cambi di scena luminosi che in qualche modo si riallacciano anche ai cromatismi e alle atmosfere dei film di Fellini, quindi i rossi, gli azzurri che cambiano con molta attenzione anche rispetto alla luce di cui ha bisogno una mostra fotografica, e che però creano un contesto anche immersivo senza diventare troppo invasivo, appunto. Ci dai tutti i riferimenti web? Potete visitare sicuramente il nostro sito internet cinecittasimostra.it, e poi ci trovate sulla nostra pagina Facebook Cinecittà si mostra Shows Off, dove potete trovare tutti i click, ossia i mini tour digitali che vi porteranno, qualora non riusciste a venire qui fisicamente, a fare una passeggiata tra i ritratti fotografici di Elisabetta Catalano dedicati a Fellini e a suo cinema. Ritratto Rosso, Elisabetta Catalano guarda Federico Fellini, studi di Cinecittà a Roma dal 25 febbraio al 21 marzo 2021. Saluto e un ringraziamento a Barbara Goretti. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille Federico, grazie mille. Con Alberto Crespi per parlare della mostra su Mario Monicelli curata dal Centro Sperimentale alla Casa del Cinema a Roma e poi sullo spazio web mostre virtuali di Diari di Cineclub fino al 14 marzo 2021 e da lunedì 15 febbraio in presenza. Alberto, ben trovato. Ben trovato a te, un saluto a tutti gli ascoltatori. Le ultime due parole che tu hai detto sono le più importanti. In presenza. Hanno riaperto i musei, come sappiamo, sia pure con presenze un po' contingentate, per cui riapre anche la Casa del Cinema. Non possono ancora proiettare film, per cui per la programmazione cinematografica bisognerà aspettare il prossimo DPCM, quindi facciamo tutto il tifo perché sia possibile quanto prima. Però la Casa del Cinema è anche una struttura museale, diciamo così, e quindi da lunedì, dalle 10 alle 18, si potrà andare a vedere questa mostra che è allestita nelle due sale che precedono la sala di proiezione, due sale che sono intitolate tra l'altro a due grandi sceneggiatori come Amidei e Scarpelli che con Monicelli hanno avuto molto a che fare. È un viaggio fotografico nel lavoro di Mario Monicelli dagli inizi, i film in coppia con Steno, fino all'ultimo film, Le Rose del Deserto, quindi copre gran parte del Novecento perché Mario Monicelli ha avuto una carriera lunga alla quale siamo tutti molto affezionati perché ci ha regalato film popolari, film bellissimi, film molto divertenti. Ci sono anche delle foto private, per esempio ad aprire la mostra c'è un bellissimo scatto di un grande fotografo, Angelo Frontoni, in cui Monicelli è insieme a una delle figlie, alla figlia Rosa che era appena nata, aveva credo 1 o 2 anni in questa fotografia. Trattandosi di Angelo Frontoni potete immaginare che si tratta di una foto posata, no? E infatti Monicelli curiosamente sorride in questa foto e ha in mano una rosa che è il nome della bambina, ma a rompere il rituale della foto posata ci pensa la bambina, che nella foto ha un'aria estremamente arrabbiata, si capisce benissimo che vorrebbe fare altre cose invece che posare per una foto col papà, e mentre Monicelli guarda verso l'obiettivo la bambina guarda altrove, probabilmente guarda verso la mamma, vuole tornare a giocare, ecco. Quindi anche in quella foto, che sarebbe una foto un po' rituale, ecco, il rituale viene spezzato. Mario Monicelli aveva questa grande capacità di spezzare sul nascere ogni forma di patetismo, ogni forma di perbenismo. Con lui si andava sempre sul concreto, sulla vita reale, ecco, e anche in questa foto lo conferma. Leggo di 116 foto, è corretto? Sì, sì, è corretto, è corretto. Molte foto di set, soprattutto, che sono belle da vedere perché mostrano appunto il regista, la troupe, gli attori al lavoro. Che formati hanno? Differenziati? Sì, differenziati. Mediamente sono pannelli appesi al muro, naturalmente. Sono foto grandi, la maggior parte in bianco e nero, ma per gli ultimi film naturalmente ci sono anche foto a colori. Potrete rivedere scatti famosi dalla Grande Guerra, dall'Armata Brancaleone, dai soliti ignoti, ma anche scatti di film meno visti e anche delle foto che non si sono mai viste. Vengono tutte dall'archivio fotografico della Cineteca Nazionale, che come sappiamo lavora all'interno del Centro Sperimentale, e testimoniano la ricchezza di questo archivio. Lo dico pensando anche al futuro, è un archivio dal quale si potrebbero fare migliaia di mostre del genere e qualcuna la faremo. Per esempio posso anticipare che nel corso del 2021 si realizzerà qualche cosa di simile su Nino Manfredi, di cui tra poco, a fine marzo, se non ricordo male, ricorre il centenario della nascita. Ecco, posso anticipare che la Casa del Cinema festeggerà Manfredi nel corso dell'anno, sia con proiezioni di film, sia con una mostra fotografica simile a quella di Monicelli. Sempre sperando di poterci vedere, di poter ricominciare ad andare al cinema tutti assieme. Alberto, che tu sappia, com'era nata l'idea di questa esposizione? Il Centro Sperimentale e la Cineteca hanno in realtà un congruo numero di mostre già pronte, per così dire, che sono state anche raccolte in un bellissimo volume non commerciale, sapete quei volumi strenna che si fanno anche un po' per autocelebrarsi, no? A cura di Antonella Felicioni, che è una delle responsabili della Fototeca. È un archivio infinito, come dicevo prima, ma quelle raccontate in questo volume sono appunto mostre già pronte. Alcune di esse hanno già girato e quindi c'è un ente, un istituto, spesso ci vengono richieste dagli istituti italiani di cultura all'estero, per esempio, possono essere spedite sia in forma digitale sia attraverso i pannelli già stampati. Quella su Monicelli quindi esisteva già, è stata arricchita, è stata aumentata dal punto di vista della quantità delle fotografie. Ma ecco, se mi permettete un piccolo spot autopromozionale del Centro Sperimentale, ecco, sappiate che se uno entra nel sito www.fondazionecsc.it c'è un ricco catalogo di mostre che chiedono solo di trovare uno spazio in cui la gente le possa vedere. Quindi l'idea di Monicelli è nata così, ma nasce anche naturalmente dal fatto che negli ultimi mesi del 2020 gli abbiamo dedicato un numero della rivista storica del Centro Sperimentale, la rivista Bianco e Nero, che è un numero completamente dedicato a lui, in cui c'era per esempio un articolo bello del giovane scrittore Paolo Di Paolo, che infatti è venuto con me a vedere la mostra, l'abbiamo ripreso, abbiamo registrato una breve intervista con lui, che sarà messa sul sito della Casa del Cinema proprio lunedì, in occasione dell'apertura al pubblico della mostra. Abbiamo già registrato anche delle interviste con me e con Giorgio Cosetti, il direttore della Casa del Cinema, che raccontano alcuni dei film più importanti di Monicelli. Contiamo di realizzarne altre nei prossimi giorni, invitando a vedere la mostra anche collaboratori di Monicelli che hanno collaborato al numero di Bianco e Nero e che comunque sarebbe bello far coinvolgere perché parlino del loro grande maestro. Ho già invitato Enrico Vanzina, che credo potrà venire, chiederò anche a Riccardo Milani, il regista del Gatto in Tangenziale, che è stato aiuto di Monicelli in varie occasioni, di venire anche lui. Insomma, coinvolgeremo un po' di persone che con Monicelli hanno lavorato o a Monicelli hanno voluto bene per fare delle specie di tour guidati di questa mostra. La mostra su Mario Monicelli, curata dal Centro Sperimentale a Roma, la Casa del Cinema, da lunedì 15 febbraio in presenza e aperta fino al 14 marzo 2021. Un saluto e un ringraziamento ad Alberto Crespi. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima! Alla prossima e sempre un saluto grande a tutti gli ascoltatori. Vi aspettiamo numerosi, visto che si ricomincia a potersi vedere di persona. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.